Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Prima della fine del 2012 ho piacere di parlare di Debussy, perché quest'anno è il 150° anniversario della nascita. E anche se nel nostro percorso ovviamente eravamo arrivati a Beethoven, ma Beethoven lo ritratteremo ancora per poi andare da lì in avanti verso i romantici. Torniamo a Debussy, un compositore che è morto nel 1918, non ha avuto una vita lunga, ed è sorprendente il fatto che con una vita trascorsa per più di 30 anni, per 38 anni nell'Ottocento e 18 anni nel Novecento, o se vogliamo vederlo dal punto di vista artistico, 20 anni di vita artistica nell'Ottocento e 18 anni di vita artistica nel Novecento, è a tutti gli effetti considerato un compositore del Novecento musicale, colui che ha aperto la strada alle opere del Novecento della musica d'arte. Per parlare di Debussy e per in qualche modo inquadrarlo non soltanto come musicista del Novecento, ma per considerarlo sin dalla sua nascita musicale, prendiamo un po' di rincorsa, e questa rincorsa la prendiamo con un piccolo brano che è un preludio di Chopin. È il preludio opera 28 numero 4. Chopin scrisse 24 preludi per pianoforte. Il quarto è quello che vi farò sentire ora, ne parleremo un attimo e da lì poi prenderemo la strada verso Debussy. Questo preludio venne eseguito il 30 di ottobre del 1849 alla chiesa della Madeleine a Parigi durante i funerali di Chopin. E venne eseguito all'organo, però fu uno dei brani che accompagnarono la cerimonia funebre. Non è difficile immaginare il perché, erano solenne, con un andamento quasi alla processione, quasi come se fosse un passo. Melodia che con queste due note è quasi un pianto. È sorprendente in ogni caso che di Chopin fosse stato eseguito questo brano e non la celeberrima marcia funebre dalla seconda sonata per pianoforte, la marcia funebre che è uno dei brani più tristemente eseguiti, se vogliamo, in tutto il panorama della creazione musicale, cioè il brano che accompagna molto spesso le funzioni funebri. Venne eseguito questo preludio e il funerale fu fatto il 30 di ottobre del 49, 13 giorni dopo la scomparsa di Chopin. Chopin morì il 17 di ottobre. Furono dei preparativi molto lunghi, perché Chopin era una vera e propria star. Non aveva una vita economica florida, però sicuramente per la Parigi dell'epoca era un personaggio molto importante. Ecco, Chopin morì nel 49 a 39 anni, ma la traccia che lasciò nei compositori della seconda metà dell'Ottocento fu estremamente forte. Basti pensare che se Chopin avesse avuto una vita media, fosse vissuto fino a 70 anni, poco meno del Dante, 75, sarebbe arrivato fino al 1880, 1885. Quindi avrebbe vissuto pienamente l'epoca della seconda metà dell'Ottocento. E invece con una morte improvvisa, o morte comunque molto prematura, a 39 anni, lasciò questo spazio vuoto a quei compositori che nella seconda metà dell'Ottocento erano giovani che si avviavano alla musica d'arte. Per esempio Gabriel Fauré, nato nel 45, quindi a 4 anni quando Chopin morì. Fauré, che negli anni di studio studiava in un momento in cui era ancora vivissima la memoria di Chopin. Fauré che nella propria vita musicale scrive dei notturni come Chopin, scrive dei preludi come Chopin, scrive delle mazurche, lui che è totalmente francese. Chopin aveva portato la mazurca a Parigi, nei salotti parigini, ma dalla Polonia, danza polacca. Ecco, questi compositori si ritrovarono nella seconda metà dell'Ottocento ad avere quasi una visione dell'estetica musicale che filtrava attraverso vari elementi, ma uno di questi elementi era molto importante ed era il lascito ideale di Chopin. In quell'ambiente nacque Debussy nel 62 e cominciò a studiare bambino negli anni 70, appunto quando di Chopin scomparse era 21 anni prima. Negli anni 80 Debussy comincia a produrre i primi lavori musicali. Sono lavori per voce e pianoforte, su poesie di Baudelaire, qualcosa per orchestra e molto per il pianoforte, lo strumento del salotto. Ecco, ora io vi farò sentire un brano della prima produzione di Debussy, la prima delle arabesche, un brano che è stato trascritto in tante occasioni per orchestra. È un brano, come gran parte dei brani da salotto, diviso in tre parti, collegate l'una con l'altra, A, B e A. La cosa più rilevante è che nella parte A, quella dove la melodia dovrebbe essere l'elemento di primo piano, questo brano presenta degli arpeggi. La melodia è appena accennata, ma l'elemento principale sono questi arpeggi. Abbiamo un po' di melodia. E da qui una melodia che non è più cantabile, è una linea melodica rapida. Stesso Chopin diceva non sono cantabili, ma sono melodie, anche se rapide, anche se non adatte a una voce, ma pensate come idea di canto. È un brano quindi che è quasi un'improvvisazione, un brano leggero, e che si rifà, secondo quello che scrive Debussy, all'idea dell'improvvisazione dei canti gregoriani, dove attorno a una nota di partenza c'erano degli allontanamenti, dei ritorni, che erano poi i melismi, e queste note venivano abbandonate e ritrovate dopo percorsi quasi a ruota intorno alla stessa nota. Ecco, questo lo ritroviamo in Debussy. Debussy che vede come il maggiore rappresentante di questo sviluppo del melisma e dell'omaggio ai canti gregoriani, Bach e Chopin, che negli ultimi anni della sua vita si dedica al contrappunto, quello di Bach e di Cherubini, per una crescita personale di maggiore conoscenza. Ecco, questa è la prima delle arabesche, venne scritta nella fine degli anni 80, nel 1888, da un Debussy che aveva all'epoca 26 anni. Mm-hmm. è quasi una libera improvvisazione molto delicata, ma dove la melodia, che comunque è presente, è una melodia non cantabile, che è paragonabile a uno scioglilingua, che ha un andamento poetico, ma che è tipico della fioritura della musica precedente a Bach e che in qualche modo è presente anche nella scrittura di Chopin, quando Chopin appunto scrive melodie non eseguibili vocalmente o strumentalmente se non col pianoforte, ma che dice, sottolinea, eseguile pensando che è tutta melodia quello che percepisci e che fa parte della linea superiore del brano musicale. Questo è un brano scritto nel 1888. Il prossimo che vi farò sentire, poi dopo parleremo un attimo di questo periodo, è scritto pochissimo dopo, nel 1889. E il titolo è Reverie. Debussy lo scrisse nel 1889 e lo diede, per motivi economici, a un editore nel 1891. Poi questo editore, a differenza dell'Arabesca, che venne pubblicata appunto nel 91 da Durand, un importante editore francese, la casa editrice esiste tuttora, diede invece Reverie a un editore che poi, forse per problemi economici, forse per scelta editoriale, non pubblicò questo brano. E appunto che questo brano venne eseguito in prima esecuzione nel 1899, che ancora non era edito, quindi in pratica, se vogliamo, commercialmente non era nemmeno un brano redditizio per il compositore, era rimasto lì nel cassetto. Venne pubblicato solo più tardi, nel 1904, da un altro editore francese, Fromont, altro editore molto importante, e in quella occasione Debussy scrive: grazie per la pubblicazione, ma non mi pare che fosse un brano che valesse la pena di essere pubblicato. Nel giro di 16 anni la visione della propria poetica da parte di Debussy era cambiata al punto di quasi non apprezzare la musica scritta in anni giovanili. Ecco, però questo è uno dei brani forse più dolci di Claude Debussy ed è Reverie. Thank you. Questa musica, i musicologi ci vedono, ci sentono molta influenza della musica russa di quell'epoca, della musica di Borodin, di Tchaikovsky, di Rimsky-Korsakov. Hanno anche analizzato i vari temi, hanno ritrovato idee che richiamano l'andante, per esempio, della prima sinfonia di Borodin o il secondo movimento del secondo quartetto di Borodin. Quindi Debussy è collegato alla musica del periodo romantico russo. Non è un caso, perché in quegli anni, questo brano è del 1889, l'Arabesque era del 1888, a Parigi ci fu l'esposizione universale, l'anno in cui venne costruita la Tour Eiffel, e in quell'occasione gli artisti francesi della seconda metà dell'Ottocento vennero in contatto con l'arte che proveniva da quest'area geografica così distante, basta pensare anche agli spostamenti, la difficoltà, senz'altro più agile rispetto all'epoca di Mozart, ma in ogni caso la difficoltà di movimento che poteva esserci ancora verso la fine dell'Ottocento. Quindi l'idea di conoscere un materiale proveniente da una zona così distante da Parigi era un elemento di grande rinnovamento anche per le idee degli stessi artisti. In più, a Parigi viveva la baronessa von Meck, grandissima protettrice dei compositori russi che mandavano alla baronessa von Meck le proprie opere perché le potesse fare eseguire dalle varie orchestre sinfoniche presenti a Parigi nell'epoca. Quindi Rimsky-Korsakov mandò Scheherazade, Tchaikovsky mandò la sua prima sinfonia, venivano mandati in formato da casa nella versione per pianoforte a quattro mani, in modo che intanto potessero essere suonate, apprezzate e da lì poi, nel caso, eseguite nella versione originale per grande orchestra sinfonica. Era un punto di riferimento imprescindibile la baronessa von Meck. E Debussy, presso la baronessa von Meck, trova lavoro come in pratica musicista a comando. Durante l'estate veniva ingaggiato per accompagnare la baronessa von Meck in vacanza ed essere a sua disposizione per suonare ogni volta che una sorta di lettore CD umano. Era un Debussy ventenne, poco più che ventenne, ma che in questo modo veniva a conoscere direttamente la musica che veniva inviata da questi compositori russi. Ecco, non so se avete fatto caso, ma in questo brano ci sono delle note dell'accompagnamento che sono quasi un cammino, dolcezza, un cammino chiaro e, se vogliamo, anche melodico, che fa da contraltare a quella che è la melodia vera e propria, quella della mano destra. Mm-hmm. melodia che vi ho suonato, provate a pensare se vi sembra intonata o stonata. Oggettivamente ci sono delle note in questa melodia che vanno a scontrarsi con quelle del cammino della mano sinistra. Queste note, unite a queste, vanno a sbattere. Suonate in questa maniera, chiaramente, sono dissonanti, sono note che cozzano tra di loro, come le avevo suonate prima, come Debussy suggerisce, chiedendo un determinato tipo di sonorità, di colore, non cozzavano più di tanto, anzi, andavano semmai a rendere questa melodia ancora più interessante. Avete ascoltato? Guida all'ascolto della musica classica, 3 secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Trasmissione realizzata da Radio Città Fujiko in collaborazione con l'Università Primo Levi e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.